nuovo programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Mi aspettavate, spero, io aspettavo voi. Il sabato è il momento del bilancio, delle notizie della settimana. Ho una confusione in testa che mi è venuto un po' mal di testa, ma dopo cercherò di snocciolarvene qualcuna, perché è sempre il momento difficile, no? In realtà ne avete accumulate di notizie, di cose, di riflessioni, però quando arriva il momento che uno vi chiede ma qual è la notizia che vi ha colpito questa settimana, è sempre il momento del panico. Ma vi lascio qualche minuto per riflettere e vi ricordo anche il numero verde per intervenire, che è 800 24 00 24. Numero verde, quindi gratuito, 800 24 0024. Ma non posso esimermi, come al solito, dal rito di dirci che cosa anche questa settimana ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Io andrei direttamente sulla classifica di Forbes, la rivista americana, no? Molto nota, che ogni anno fa appunto questa classifica delle persone, in realtà degli uomini più potenti del mondo, perché è rarissimo che ci sia qualche donna, anche se quest'anno in una posizione abbastanza dignitosa c'è una donna. Ma chi è? Ecco perché non ci sono più le mezze stagioni. Chi è il primo, la persona più potente del mondo? Fino, diciamo, all'uscita di quest'ultimo numero è sempre stato negli anni il presidente americano, chiunque fosse, no? Naturalmente della potenza mondiale. Invece sentite un po' come cambiano i tempi: l'uomo più potente del mondo in questo momento è il presidente cinese Jintao. Chi l'avrebbe detto, no? Questo per confermare davvero che ormai la Cina spopola, possiamo dire, con i suoi miliardi di persone e con la potenza economica che ormai è diventata, non ancora militare, ma insomma comunque è il paese al centro del mondo, volenti o noleti. Ecco, questo ci conferma, non ci sono più le mezze stagioni, non è più il presidente americano, ma è il presidente cinese. Che cosa significherà questo prossimamente? Ce ne accorgeremo, credo, un po' tutti. Però, tra le notizie della settimana, io vorrei, come sempre, darvi una mano e raccontarvene qualcuna, il più possibile sinteticamente. Innanzitutto le elezioni di metà mandato in America, no? Che sono sempre importanti per capire se c'è la conferma del presidente che è stato scelto 2 anni prima oppure se le cose sono cambiate. Bene, Obama ha subito davvero purtroppo una grande sconfitta alla Camera, che aveva la maggioranza, il suo partito, il Partito Democratico, è stato sconfitto, i repubblicani hanno avuto la meglio, il Senato ancora tiene, però devo dire con moltissima senso di civismo, della democrazia, insomma, come possiamo dire, cose che poco conosciute in Italia. Obama ha riconosciuto le proprie responsabilità, le proprie colpe per questa sconfitta e ha detto: lavorerò insieme ai repubblicani. Cosa ne pensate voi di questo? E poi gli scandali, diciamo, della nostra politica invece, diciamo di altro tipo, è sempre il caso Ruby. La frase di Berlusconi, che è meglio essere veri uomini che gay. E poi i rottamatori del PD. Ecco, questo fine settimana è importante perché ci sono, diciamo, le opposizioni, e in questa forse potrei includere anche Fini, che si stanno riunendo. Allora, Fini per la prima convention di Futuro e Libertà, in cui deciderà che fare, insomma, se continuare così a vivacchiare nel PDL, a cercare un compromesso, oppure a decidere proprio di staccarsi completamente. Ed è una cosa che preme sapere sia ovviamente a Berlusconi e al PDL, capire insomma se rientra un po' da figlio il prodigo, anche se ormai il suo movimento è creato, e anche al PD interessa capire se Fini in qualche modo sosterrà, non so, una mozione di sfiducia nei confronti di Berlusconi e del governo, se ci sarà una possibilità di alleanza almeno iniziale per un governo tecnico. Insomma, è una cosa che crea grande attesa. E poi dall'altra parte ci sono i ribelli del PD, cosiddetti giovani, che si sono riuniti a Firenze, questo è il secondo giorno, e vogliono rottamare, i famosi rottamatori. E poi ci sono i nuovi sviluppi del caso di Sara Scazzi, il governatore Draghi, che ha detto una cosa molto importante da governatore della Banca d'Italia in questi giorni, e cioè, lo vado a riprendere, ha detto: nessun futuro e nessuna crescita è possibile in un paese che non stabilizza i precari, non investe sui giovani e impedisce ogni mobilità sociale. Il maltempo, quello che volete, ce ne sono tantissime, ma prima di tutto il mio dovere è presentarvi, signore e signori, l'opinionista estemporaneo di oggi. Anna Maria Bernardini De Pace. Buongiorno Roberta, buongiorno ascoltatori. Benvenuta Anna Maria, prima di venire qui mi ha detto che insomma altra priorità prima di me era andare ad accogliere questo nuovo cagnolino a casa. Sherlock. Sherlock si chiama, quindi insomma piuttosto indagativo questo cane. E Anna Maria, non ha bisogno di presentazioni, è avvocata, è giornalista, è saggista ed è la più famosa matrimonialista d'Italia. Ultimo libro che cade un po' a fagiolo questa settimana con alcune delle notizie principali che ci sono state è l'ultimo libro, Diritti diversi, la legge negata ai gay, pubblicata da Bompiani. Anna Maria, di tutte queste cose che ti ho detto, c'è una cosa in particolare che ti ha colpito, di cui vuoi parlare? Per esempio questa... non ti suggerisco niente, dimmi tu. No, guarda, ti dico, la cosa che più mi ha colpito, è un po' imbarazzante dirlo, però è questo fatto sempre dello scandalo che perseguita Berlusconi. Ma perché? Da un altro punto di vista. Come donna... In quanto donna che ha fatto battaglie, perché ho fatto le battaglie quando ero giovane, ho fatto le battaglie per l'aborto, ho fatto le battaglie per il divorzio, per la dignità femminile, per la parità, sono fortemente imbarazzata e preoccupata di come le donne stanno sperperando il capitale che tante donne come me e anche come loro in realtà hanno accumulato perché potessero non vergognarsi di essere schiave, di dover dipendere dagli uomini, come succedeva una volta. Guarda che soltanto dal 1975 c'è parità nella famiglia. Il diritto di famiglia. Nel diritto di famiglia. Almeno così, una volta, l'uomo aveva quasi potere di vita e di morte sulla moglie, sulle figlie, eccetera. Queste ragazze di oggi che cosa fanno, malgrado abbiano avuto tutte le opportunità giuridiche, sociali, non ci sia più nessun problema di poter diventare schiave di un uomo, diventano schiave del denaro, del potere, si mettono a disposizione di qualsiasi uomo per bruciare le tappe, non hanno il senso dell'onore, della dignità, della fatica, della competenza, dell'impegno, tutte cose che fanno grande una persona, ma anche una donna che solo di recente ha avuto l'opportunità, perché 20-30 anni di storia sono pochi rispetto a una storia, quando hanno cominciato a studiare le donne, a poter schiavitù, avere accesso a certe professioni ancora adesso, insomma. Infatti con questa ipocrisia vergognosa fanno le prostitute e si chiamano ragazze immagine piuttosto che escort, sono disposte a qualsiasi cosa pur di incontrare un potente, si fanno pagare per il gesto sessuale che dovrebbe essere il momento di intimità più fondante e più emozionante con un uomo per esprimere sentimenti, perché il corpo serve laddove con le parole e con i sentimenti non riesci più a spiegare, e invece riducono il loro corpo alla mercificazione, banalizzano in questo modo orrendo. Anna Maria, queste sono cose assolutamente condivisibili che dici. Non è per scagionare dall'altra parte. L'uovo una gallina, è nato prima l'uomo la donna. Non è così. A parte che sarebbe nato prima l'uomo prima l'uomo, secondo i racconti. La donna, una misera costola. Ma non è questo. Ma gli uomini, anche i più ricchi e i più rincoglioniti, non potrebbero fare niente se non avessero le donne che si espongono su questi buffet e tutti a disposizione. Io sono contro, così come sono contro le donne che minano le coppie. Credimi, nel mio lavoro tutti i giorni io vedo, non è il tradimento a portare alla fine di un matrimonio, però il tradimento è il punto terminale, e le più potenti a far valere il tradimento sono queste giovanissime generazioni che di fronte a un uomo ricco l'unica cosa che desiderano è scalzare la compagna e prendere possesso di un territorio. Però può essere, Anna Maria, che col fatto che in realtà sì, la parità c'è, ma fino a un certo punto, tu vedi anche nella politica una rappresentanza bassissima femminile, no? Perché c'è sempre il tetto di cristallo, grazie, se gli uomini partono sempre, io sono partiti sempre prima. La metafora della pista dei 100 metri, no? Se metti gli stacchi di partenza per te uomo più avanti e quelle donne più dietro, è chiaro che arriverai sempre primo, no? Si vince facile. Sì. In questo modo. Quindi non può essere che le donne continuino in qualche modo a subire questo tipo di cultura, e alcune, non certo io, non certo tu e molte altre, decidono che l'unico modo per poter andare avanti... Ho capito, questa è la decisione orrenda. Noi non abbiamo deciso in modo diverso. Cioè adesso c'hanno la testa. Io, sai di che cosa sono preoccupata? Delle mamme di queste donne. Però invece parliamo... Delle mamme, parliamo, sono loro che parliamo le portano. Parliamo dell'istituzione, Anna Maria, l'istituzione. Secondo te, no, per esempio, diceva anche il Cardinal Tettamanzi, no? Il Vescovo di Milano, diceva in realtà, vediamo se lo ritrovo tra tutti i fogli che ho messo quassù, vediamo qua, eccolo qui, questa specie di dico i miei ritagli, dice per chi ha ruoli istituzionali il privato è anche pubblico. Sì, su questo sono d'accordo, ecco, ma guarda, cioè, ricoprire un certo ruolo comporta anche degli oneri e dei doveri o in realtà è sicuramente, ma infatti qual è l'errore che fa quest'uomo che, sai, vizi privati e pubbliche di virtù, non è che li stiamo scoprendo oggi queste cose, l'ipocrisia, il politicamente corretto è anche questo, ma se uno si circonda senza nessun atteggiamento critico di donne che arrivano da qualsiasi parte, che sgomitano per poter andare a fare le schifezze più inenarrabili nelle stanze del potere, certo sbaglia, ma io sono convinta che sbaglia tantissimo, evidentemente non c'è nessuno che lo consigli bene, lui stesso non è lucido, sono assolutamente d'accordo che sbagli, però sicuramente forse abituato ad altri tempi, quando ti ricordi una volta che le amanti sapevano fare le amanti, non dicevano niente, stavano nascosto, che sia bello questo, però è peggio quello che sta succedendo, cioè secondo me non ci dovrebbe essere niente di nascosto. Mio padre mi ha insegnato una cosa che nella vita, devo dire, mi ha aiutato, e cioè solo quello che non si fa non si sa, tutto il resto prima o poi si sa. Questo mi ha portato a vivere la verità sopra ogni cosa, perché la verità è rivoluzionaria, no? Secondo il principio di Che Guevara, che io da anarchica scelgo, l'unico principio che veramente vale. Ma non è solo quello, è che in qualsiasi momento tu devi pensare che quello che stai facendo può essere giudicato da una qualsiasi persona, anche una sola che ti stimi. Allora l'importante è sapere questo per non farlo, se tieni al giudizio degli altri o anche di una sola persona. 800 24 00 24, queste sono le stagioni che cominciano a raffreddarsi, e il numero verde se volete commentare quello che sta dicendo Anna Maria Bernardini De Pace o qualsiasi altra notizia di questa settimana, lo sapete, sempre con la massima libertà. E intanto, proprio perché ci tengo alla libertà di questa trasmissione, sentiamo anche un punto di vista extraplanetario. Riflessioni da Marte. Che dire quassù da Marte delle cose osservate anche questa settimana, no? Puntando come sempre il telescopio verso il globo terracchio, in specie sull'Italico stivale. Direi che una cosa è ormai evidente anche da quassù. È evidente anche ai crateri marziani, anche ai cactus del deserto. Finalmente è stata trovata la vera causa dei mali umani e delle sciagure terrestri. Chi è colpevole infatti dei cambiamenti climatici? Chi è colpevole del traffico congestionato che ottura la gran parte delle città? Chi è colpevole dei dissesti idrogeologici e anche pure della famiglia? Del caro benzina e delle doppie punte? I gay. Signori miei, la risposta era sotto gli occhi di tutti, ma ci voleva l'illuminazione folgorante, e difatti è meglio essere una porta girevole di un ufficio postale di montagna piuttosto che gay. Non sei un uomo se fare mazzate, non sei buono. Non sei un uomo se tua moglie di te se ne fotte. Non sei un uomo se non la gonfi di botte. Non sei un uomo se non guidi le macchine grosse. Non sei un uomo se non tiri due ganci alle giostre. Non sei un uomo, sei un gay se ti metti a piangere. Non sei. D'altronde è di questa settimana la ricerca di scienziati britannici e canadesi che certificano che in realtà l'uomo di Neanderthal era ben peggio. Ora però si passa alle maniere forti per restaurare un po' di moralità, no, nell'italico paese. E dunque il pacchetto sicurezza varato dal Consiglio dei Ministri prevede l'espulsione delle prostitute di strada, mentre quelle di lusso, per dimore di lusso naturalmente, possono continuare a svolgere la loro attività. E i clienti, si chiederà qualcuno, pochi in verità se lo chiedono, i clienti che c'entra? Quelli sono gli utilizzatori finali e poi sono veri uomini, si sa, meglio essere veri uomini che alberi di caucciù, come disse il poeta. Ma ecco che arriva la rivelazione, perché anche la giustizia sulla terra da qualche parte è nascosta. Secondo quanto ha scoperto un gruppo di ricercatori britannici che per due anni hanno messo sotto il microscopio le famiglie del Regno Unito, indiscutibilmente concludono così: la ricetta per un marito felice è la seguente: due figli, una moglie che lavora a tempo pieno e fare la propria parte nei lavori domestici. Un vero uomo si dovrebbe alzare per lavare i piatti. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti, dovrebbe lavare i piatti, dovrebbe lavare i piatti. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti, dovrebbe lavare i piatti, dovrebbe lavare i piatti. Quindi, se avete in mente una notizia della settimana e soprattutto anche l'opinione da esprimere su di essa, concentratevi abbastanza velocemente, diciamo che poi vi ricordate che verso la fine devo sempre correre e diventa una questione di secondi. 800 24 00 24, come mia opinionista estemporanea oggi c'è Anna Maria Bernardini De Pace, avvocata, saggista, giornalista e la matrimonialista più famosa d'Italia, ha già commentato piuttosto diffusamente la questione del scandalo Ruby, Berlusconi eccetera eccetera. Di notizie ve ne ho elencate tante se volete spostarvi su altri argomenti, ma c'era il numero verde Rosa. Rosa da Cremona, riprendiamo. Sono proprio costa e tanto, perché quando io vedo sulle pagine della Repubblica il fatto, la stampa, tutti contro Berlusconi, quando c'era Fini che era indagato non si è saputo niente, e no, come i primi titoli, no, su tutte, ecco, le prime pagine, Rosa, no, c'era. Quando vedo Berlusconi invece che non può fermarsi con una donna che quella ormai è sua, e poi tutte le cose che dicono su di lui, ma non è possibile che ce l'abbiano con lui. Io ieri sera guardavo il genero della avvocatessa, una bella faccia pulita, ma quali sono Bova, gli uomini? Penso che abbia la figlia dell'avvocatessa sia altrettanto una gran, perché ha imparato dalla madre, perché siamo noi mamme che dobbiamo dare un esempio alle nostre figlie. Senti, ma ai figli maschi chi lo dà l'esempio? Ce ne sono tante, mi è rientrata una sola, mi ho insegnato anche mia figlia e si tramandano. Ma poi non si può parlare di una persona quando non vedi e quando i giornali si divertono sempre su quella. Beh, insomma, ecco. Non è proprio una persona qualunque. Se fosse il salumiere di sotto casa, forse se ne occuperebbero i media un po' meno, l'opinione pubblica. Rosa, chiarissima la tua posizione. Sentiamo Paolo da Roma. Sì, salve. Volevo dire, appunto, intervenire rispetto a quanto il nostro Presidente del Consiglio ha detto riguardo meglio andare con una bella donna che con gay. Quella è una cosa è diversa la frase. Se fosse stata così non sarebbe stato offensivo. In realtà ha detto meglio vedere le belle ragazze che essere gay. Certo, è come dire, vabbè, una cosa certo. È disprezzabile, meglio essere qualsiasi altra cosa. Indubbiamente, ma questo spiega una cosa, che come ha detto ieri su Repubblica il Presidente Scalfaro, questo è un leader che porta la gente che lo segue non a fare due passi in salita, ma a fare due passi in discesa. Perché? Perché è chiaro che quello che dice e i suoi comportamenti non fanno nulla, non danno nulla di positivo, di un insegnamento positivo al nostro paese e quindi al popolo italiano. È meglio fare due passi in discesa che fare due passi in salita. La sua è stata un'escalation che ormai dura da tanti anni, è stata fatta tutta in discesa. Ma perché? Poi basta vedere l'intervento della signora che ha fatto precedentemente, cioè Rosa. Questo ha in mano un potere mediatico allucinante, dove anche una signora che sono convinto essere di sani principi, una persona qualunque come lo sono io, come lo è, non sono tanti italiani, non usano purtroppo il loro cervello e la loro etica, ma seguono quello che gli viene imposto dal potere mediatico che ha quest'uomo. Ed è gravissimo questo, è gravissimo, è una cosa che porterà questo paese allo sfacelo. Non c'è altra soluzione che quella di cercare di risanare questo paese, ma attraverso un'etica, cavolo, cioè un'etica. Questo è un personaggio che è il Presidente del Consiglio, è quello che ci rappresenta a livello mondiale, cioè è drammatico, è una cosa allucinante, ma neanche nelle dittature sudamericane più becere si attuavano questi comportamenti. Paolo, chiarissimo anche il tuo pensiero, così abbiamo sentito due posizioni completamente contrastanti tra Rosa e Paolo. 800 24 00 24, prima di passare la parola a Anna Maria Bernardini De Pace, così vi aggiorno man mano anche sulle altre notizie, quelle che arrivano proprio negli ultimi flash di agenzia. Questo parla di un treno con scorie che è entrato in Germania, scorie radioattive che ieri è partito dalla Francia alla volta della cittadina tedesca di Görlenben nel nord della Bassa Sassonia, ha passato il confine attorno alle ore 14 e si trova adesso in Germania. L'ha reso noto la polizia di Lenenburgo, evidentemente c'è qualcosa di poco legittimo e chiaro e legale in questa cosa. E poi dal PD invece, dalla convention, vi dicevo, dei rottamatori a Firenze, dice il sindaco della città Matteo Renzi, che è capo, diciamo un po' quello che capeggia questo movimento, è del tutto naturale con un governo come questo che un partito d'opposizione faccia una manifestazione, ma se c'è la manifestazione ma non c'è la proposta politica si perde la strada di casa. Evidentemente si riferisce al segretario del PD Bersani, che ha annunciato che si farà una manifestazione di piazza contro il governo. Anna Maria. Allora, io sono assolutamente contraria a molti comportamenti del nostro primo ministro, proprio perché è primo ministro. È orrenda la frase che ha detto, anche se è una frase che può essere compresa da tanti uomini che ancora la pensano così, perché però è antico, brutta, no? Che si debba trovare l'intesa, figurati, io ho scritto un libro ho scritto un libro proprio su questi, lo per ricordo difendere. Che diritti diversi la legge negata ai gay, quindi la trovo malissima. La verità purtroppo secondo me è un'altra, ribadisco, in parte colpa sua, in parte colpa delle donne, tutto, però da sempre sesso e potere sono due parole che vanno insieme, c'è poco da fare. L'uomo di potere è l'uomo di potere affascina le donne, perché non ascoltami di potere. Anna Maria, io facevo l'esempio in questi mesi più volte, l'ho chiesto, se fossi stata una donna prima ministra in Italia, ho fatto l'esempio della Merkel in Germania, se fosse successo a lei di circondarsi di ometti, diciamo piuttosto ben prestanti eccetera eccetera, e passare alcune almeno delle sue serate nelle sue ville così, che cosa ne avrebbero fatto di questa povera donna? Sì, un disastro adesso, tra 50 anni quando questa situazione in teoria può diventare normale anche per le donne, non succede più niente, perché in Italia il minore dei mali in assoluto è Berlusconi, perché quantomeno è talmente ricco che non ruba, qui siamo sicuri, l'unico peccato che non può commettere è quello di furto. Sicuri. Sì, io su quello sarei sicura, su altre cose no. Poi l'Italia, stiamo facendo i 150 anni d'Italia, stiamo onorando i 150 anni dell'unità d'Italia. Cioè, non dimentichiamoci che cos'era Vittorio Emanuele II, di come si circondava la bella Rosina, però il Malcomune Mezzogaudio, no, oppure lo so, lo fa però, lui, lo faccio anch'io. Ecco, non è così, ma figurati, a me fa orrore questa cosa, una come me, individualista, anarchica, ti puoi immaginare se posso far passare questa cosa, però sto cercando di vedere le cose da un punto di vista oggettivo. Guarda, è appena uscito un libro sul re di Svezia dove raccontano di Orge. Sì, è uscito ieri la notizia, ecco, ieri. Cioè, Gustavo XVI, Gustavo... Tutto il mondo è paese, complimenti a Michel che non molla un secondo suo marito, perché se ben ricordi anche Kennedy lasciava un po' a se stesso. E poi se pensiamo, comunque questo poveretto c'ha 74 anni, è solo, non ha la moglie, non ha nessuno. Gli uomini a quell'età, purtroppo, non tutti, non ma tutti. Non mi fa rattristare. No, ma figurati, però è così. E in più oggi abbiamo una lotta politica che non è basata sui contenuti, per cui dall'opposizione lo attaccano come sparare sulla Croce Rossa, veramente, sugli argomenti che sono sicurissimi che hanno dei riscontri pratici, come in realtà ogni volta succede. Senti, a questo proposito, Anna Maria, prima di sentire Francesco da Milano e poi c'è Paolo da Roma, sulla questione invece dei rottamatori, no? Visto che prima leggevo questo due ragazzi che mi piacciono moltissimo, perché hanno tirato fuori un'energia, Renzi e l'altro anche bravissimo, intelligente, spesso l'ho sentito a Omnibus una mattina, poi ci sono le donne Serracchiane e le altre a me giovani. Questi due, io ho sentito loro, ho sentito parlare loro e mi è piaciuto. Tra l'altro una cosa che mi è piaciuta moltissimo è che in questo convegno che c'è stato, in questo incontro, ci sono stati 150 interventi da 5 minuti l'uno, rispettati al massimo. I giovani capiscono, i giovani che sono vissuti nell'era dello zapping, nell'era della velocità, degli spot, della velocità, di queste cose, hanno capito l'importanza di un messaggio per niente. Per cui mi piacciono, io auguro loro di riuscire a fare, anche se purtroppo c'è ancora questa cosa oggi, che ci sono dei grandi vecchi, dei vecchi che non lasciano lo spazio ai giovani, ed è sbagliato. Io che mi circondo di giovani nel mio lavoro sono felice, perché ogni giorno imparo da loro cose nuove, energia nuova, vedi un punto di vista diverso, cresce molto di più. E lasciare il potere, insomma, è una cosa, diciamo, che sfibra e preoccupa. Paolo da Roma, numero verde 800 24 00 24. Sì, buonasera, pronto? Paolo, ci siamo. Buonasera, buonasera signore e tutte e due. Volevo solo dire una cosa, complimenti fra l'altro. Comunque volevo dire una cosa. Grazie. Pensate, in una nazione come la nostra abbiamo un premier, cioè un primo ministro, che si vanta del fatto che lui comunque, diciamo, un po', non dico un lover, ma comunque è una persona che ha un certo successo con una certa categoria di donne, diciamo, per carità, senza nulla togliere. Adesso mettiamo il contrario, se una nostra prima ministro, che poi avete già anticipato la cosa, è quello che dico, dico da mesi, sì. Sì, no, è da ridere, cioè pensi se una nostra ministra, per usare una, dico, andasse a dire guarda, è meglio essere una che se la va con tanti bravi ragazzi belli muscolosi piuttosto che ma anche nelle famiglie succede così, quando il marito tradisce è una scappatella, è quando la moglie tradisce è non dei dico termini cos'è. Che ecco, non possiamo non si ma può è, dire è ridicolo, è una cosa che non lo sta, so la mentalità italiana però è allucinante. Vabbè, comunque signore, scusate, grazie della telefonata. Prego, grazie a te Paolo, l'ospitalità mi sembra doverosa. Francesco da Milano, e tra poco diamo una piccola pausa. Francesco. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Volevo un attimo intervenire ancora su questo argomento, ormai un po' troppo cavalcato. Continua a appassionare, poi potete cambiare quando volete, però prego. Gentilissima, ma volevo esprimere un attimo la mia opinione, perché mi sono fatto un po' un'idea sulla politica, su questi momenti. Sono abbastanza giovane, non ho ancora votato tante volte, però purtroppo devo dire che anche nell'intervento del cardinale Tettamanzi di ieri c'è una grande verità: i fatti di una persona pubblica sono pubblici e devono rimanere pubblici, non possiamo lasciarli a parte da quello che è il suo operato, perché purtroppo credo che tutti quanti gli italiani, specialmente noi giovani che parliamo e che vogliamo interessarci alla politica, abbiamo capito che insomma la mancanza di etica nella vita personale di una persona si rispecchia anche nell'operato, e quindi siamo tutti quanti un po' disillusi, tutti quanti un po' distaccati dalla politica, e penso che questo sarà un errore molto grave della nostra società e probabilmente che farà perdere le elezioni a Silvio Berlusconi la prossima volta che ci andrà. Non ne sono sicura, però dimmi una cosa Francesco, tu in questo momento chi voteresti? Per esempio, se dovessimo allora, andare alle elezioni, io primavera. Per la verità starei aspettando che i tempi siano abbastanza maturi per la salita di Michi Vendola, perché ho sentito parlare bene di lui anche dalle persone di destra. Sì, è vero, c'è pugliesi. Una certa stima anche da sì, molti. A me piace Vendola. Non vorrei che andasse alle elezioni troppo presto per non commettere un errore di sbilanciarsi e di bruciarsi quello che potrebbe essere un maggiore interesse del pubblico italiano, pubblico, bruttissima parola, mi scuso. Popolo italiano. Degli elettori italiani, sì, è una parola molto più importante di pubblico. Oddio, sono attivi oddio. E non sono... E qui mi sorge il paragone. Aspetterei quello al momento. Ho visto che nonostante all'inizio io abbia elencato una serie di fatti di questa settimana, dalle elezioni di mezzo termine di Obama ecco un'altra cosa che trovavo interessante, poi per sapere anche la tua opinione, a parte la questione Sara Scazzi, Draghi, quello che ha detto di importante sui precari che vanno stabilizzati in Italia perché se no non ci sarà sviluppo, anche la questione di Sanremo che è sfumata, però ci dice anche un po' in che tipo di atmosfera di temperie sociale e politica siamo, no? Si parlava di far cantare ai cantanti a fine Sanremo sia Bella Ciao, il canto partigiano, sia Giovinezza, che è stato il canto dei fascisti, repubblichini, eccetera eccetera. Poi grosse polemiche sono sfumate tutte e due, no? Perché qualcuno dice è par condicio, però par condicio non è qualsiasi cosa, vale la carezza sulla e il coltello guerra. Insieme questo insomma, è par condicio, no? Sulla guerra, perché vorrebbe dire evocare un periodo durissimo, sì. Difficilissimo, sì. Un sacco di persone hanno perso genitori, insomma sì, però io avrei evitato io. Ecco, io avrei evitato, ma ho trovato anche molto interessante il buongiorno, come sempre, di Massimo Gramellini, è stato diverse volte qui con me, che diceva, insomma, non si possono equiparare le due cose, è come dire che l'olio d'oliva e l'olio di ricino sono la stessa cosa, e faceva una serie di esempi che secondo me sono piuttosto emblematici. Comunque, vedo, dicevo, che nonostante tutto, Anna Maria, le ascoltatrici e gli ascoltatori, nonostante l'elenco che ho fatto all'inizio di notizie, sono tutti più o meno sullo stesso argomento, mi diceva ai telefoni Giorgio De Luca. Sentiamo Mario da Milano. Pronto? Mario, eccoci qua. Mi sentite? Benissimo. Allora, Mario Dattilo. Io saluto intanto Anna Maria, che è una mia amica e che penso si ricorderà di me, essendo io un amico, degli amici. Quando vi siete visti, non è che venuto a fare qualche festa strana anche qua, no? Con Anna Maria, per caso, no? Mario, No, io ho chiamato perché, allora, sull'argomento potrei dire qualcosa di concreto. Avendo io fatto lo scherzo famoso a Berlusconi, travestito da Monsignore, no? Quella storia là che è uscita sui giornali. Sì, al compleanno di Signorini. Quindi ho avuto gli hai dato la benedizione? Gli hai dato la benedizione o l'hai scomunicato? Pronto, Mario? No, sì. Non mi ha scomunicato. Ma ha baciato la mano. Vabbè, Berlusconi è l'unto da Monsignore, è vero. la cosa mi ha fatto molto piacere, perché io sono un berlusconiano di prima ora. Sì. Ecco, quindi lo dico chiaramente, quindi mi fa piacere poter dire qualcosa a favore del presidente, perché qui ormai l'Italia, tanto sappiamo, è divisa fra berlusconiani e anti-berlusconiani. Allora, proprio esattamente a metà, più è un o paese calcistico, dici quindi, Mario, allora, in questo derby. Allora, sì. Allora, io posso testimoniare questo, e dico che ho avuto il piacere di fare questo scherzo, e sono stato un'ora a tavola vestito da Monsignore ad ascoltare le famose barzellette del presidente e tutti i commenti, le battute, gli scherzi, essendo una festa, c'erano presenti anche un sacco di belle ragazze di televisione, eccetera, eccetera. L'impressione, la certezza che ho avuto di questa persona, se avesse avuto dei dubbi circa la sua moralità e tutte le cose che si dicono, è che sono tutte balle perché alla fine della sera, essendo tu Monsignore in quell'occasione vestito così, si è confessato con te e tu gli hai dato la soluzione, mi sembra di capire. Ha dichiarato però chiaramente il suo atteggiamento verso l'altro sesso in senso positivo, diciamo, e quindi non senza nascondersi dietro un dito, dicendo che lui ama le donne perché gli piacciono le donne come la maggior parte. Senti, Mario, no, ma quello che non mi è mai chiaro, Mario, è amare le donne, cosa significa? A me non è chiara questa cosa. Io amo le donne. Allora, guarda, io non posso dirlo in trasmissione perché ci sarebbe di mezzo una parola poco conveniente. Quindi il sesso, stai dicendo. Amare le donne significa andarci a letto e fare quello. No, sì, quello. Pagate o non pagate. Il 90% degli italiani dicono questa cosa, maschi, dicono questa cosa che poi niente che c'è, perché a noi ci piace la cosa, insomma, questo è amare le donne, quindi secondo questo me è amare le donne, sì. Questo è amare le donne, sicuramente scusa, non è amare gli uomini, e amare le donne poi amare gli uomini sarebbe amare il e amare la significa amare. Ma quello è un problema delle donne. Comunque gli uomini, tutti, la maggior parte, dicono così. Poi è chiaro che è un amore da animali, di un certo tipo. Anna Maria, scusa Mario, mi interessa l'opinione di Anna Maria Bernini De Pace su questa cosa, che mi sembra non fosse proprio così in linea con no, infatti pensiero. Questo è un modo di ragionare da animali. L'amore si dedica ad altre situazioni che comprendano vita, sentimenti, eccetera. Amare, diciamo, una porzione del corpo di una persona è sbagliato. Non si può amare la o amare il. Comunque, Mario, chiara la tua, lo scherzo ce l'hai ricordato. Mario da Verona, altro Mario da Verona, sentiamo. Sì, ciao Roberta. Ciao. Intanto Mario, consiglierei al mio omonimo di Milano l'antidoping, perché francamente per me amare le donne vuol dire innanzitutto rispettarle. Non è una frase fatta, credimi, perché io ho una moglie e due bambine. Mi avevo chiamato, insomma, principalmente per quelle affermazioni del Premier, perché sì. Io, avendo queste due bambine, una da 10 anni e una da 3, inorridisco pensando che debbano crescere in un paese nel quale venga passato il concetto che essere gay o lesbica sia anormale. Bravo. Io cerco di insegnare quotidianamente alle mie bambine di avere rispetto per tutti, che siano essi rom, che siano essi extracomunitari di qualunque nazionalità. E quindi, ripeto, pensare che queste mie bambine crescano con l'idea che per avere successo basta andare a letto con questo o con quel politico, piuttosto che discriminare altre persone, francamente, se finora non l'ho mai preso in considerazione, adesso seriamente penso che sia il caso di farle crescere in qualche ambiente più normale. Dove? E ripeto, quando quella signora che ha chiamato all'inizio, Rosa, sì, ecco, diceva, io consiglierei alla signora, ma in modo molto umile e costruttivo, io capisco che a volte pensare costa fatica, però cerchiamo di non farci condizionare in un modo così stupido, cerchiamo anche di riflettere sulle nostre menti. Io non credo che tutto ciò che dica Santoro oppure il Sallustri sia oro colato, quindi cerco di elaborare col mio cervello quello che mi viene detto. Di avere pensiero signora, critico, insomma, il proprio sì, filtro personale. Ma perché sennò veramente non so che fine faremo. Comunque ripeto, mi auguro di cuore che la situazione possa cambiare, perché altrimenti gli insegnamenti che do alle mie bambine, insomma, insieme a mia moglie, saranno vani. Mario, dimmi questa cosa, visto che sembri piuttosto aperto di mente, progressista, liberale, nel senso, siccome la Santa Chè in questi giorni ha detto no, ha ragione Presidente del Consiglio, anch'io sono contenta che mio figlio sia etero, che non significa no, uno è contento di essere quello che gli altri vanno disprezzati. Se una delle tue figlie fosse lesbica, cosa faresti, cosa penseresti, Mario? Guarda Roberta, io francamente dire adesso sarei ipocrita nel dire che sarei contento o meno. Certo che l'unica roba che io voglio veramente è che loro siano felici. Quindi se loro troveranno in un'altra ragazza l'amore non inteso come diceva l'ascoltatore di prima. La o il, sì. Ecco, io sarò felice per loro, quindi per me sicuramente non sarà un dramma, ecco, se so che loro sono felici. Assolutamente. Grazie Mario, mi sembra che sia un padre esemplare. A me sì, sembra, anche a me, vero? Ma in effetti la Santanchè, anche per difenderla, lei lo dice, ma a chiunque lo chiedi ti risponde la stessa cosa. Perché? Perché oggi ancora in Italia la vita di un omosessuale è difficile. Io lo so perché l'ho studiato, ho scritto un libro. La discriminazione è potentissima, non è vero che non esiste. Però ne faccia più una questione di orgoglio, no? Invece per Mario mi sembrava che non fosse una questione, ma no, basta no, che sia felice. Per lui basta che sia felice, che è giusto, però, ma allora molti hanno l'egoismo della prosecuzione della specie, per cui dicono se è gay non mi può dare dei nipotini, quindi questo è un ragionamento. Altri dicono, non sempre, le donne in questo caso possono. Le donne sì, però altri dicono appunto potrebbe avere una vita infelice, che è vero. Io penso che tra 20-30 anni non ci sarà più questo problema, insomma siamo in un periodo di transizione per tante cose ancora. 800 24 00 24. Adriano della provincia di Vicenza, mi dici solo il tema del tuo intervento? Beh, il mio tema è che questo fango continuo che viene scaraventato addosso al Presidente del Consiglio, che lo trovo una persona bravissima e degna, nessun Presidente del Consiglio in questi anni che io ho adesso, ne ho 66, nessun Presidente del Consiglio mi ha così meravigliato della bravura, della gentilezza e delle cose che fa. Tutte queste cose qui sono solo delle maldicenze che l'opposizione gli scaraventa addosso dalla mattina alla sera. Domani mattina ne arriverà un'altra che dirà che avrà preso 5.000. Senti Adriano, euro. Ma dimmi questa cosa prima di lasciarci, sì, perché sì, tempo corre. Ma secondo te c'è dietro la mafia queste calunnie, queste maldicenze? Ma può darsi, ma non è provato però, non è provato. Volevo dire che le donne sono state attratte anche nella storia da tutti i presidenti, capi di Stato, da Giulio Cesare, Napoleone. La storia ci insegna queste cose qui, che tanti contratti sono stati fatti prima sotto le lenzuole e poi sono stati fatti degli accordi internazionali. Quindi dici, ma loro poverini, che ci possono fare? Queste donne li aggrediscono così, tutte folle di donne. Grazie Adriano dalla provincia di Vicenza. 800 24 00 24, c'è Gabriella da Udine. Buongiorno. Buongiorno Gabriella. Buongiorno e complimenti a tutte voi che siete bravissime. Grazie. Allora, io volevo dire questa cosa, che Il problema non è che Berlusconi va con queste signorine, eccetera, eccetera. Il problema è che gli uomini la pensano così come lui, la maggior parte degli uomini. Anch'io direi, e gli tutte uomini le cose. Piacciono le donne così. Agli uomini non piacciono le donne che sanno pensare con la propria testa, delle professioniste, e la nostra società corrisponde a questo modello di donna. Quindi non, io non mi meraviglio che il signor Berlusconi fa queste esternazioni, perché la maggior parte delle persone la pensa così. Lui rappresenta la nostra società, il pensiero medio dell'uomo medio. Aia. Purtroppo è vero. Secondo me purtroppo è vero. Lo so. Io ho 53 anni, ho lavorato molti anni nella pubblica amministrazione quando ero molto giovane, e là molte mie colleghe hanno fatto carriera non certo con qualifiche professionali. In ogni questo... luogo, signora, in ogni luogo, ecco, purtroppo è vero. Luogo. Ma voglio dire, oggi come oggi però le donne della mia generazione che hanno delle figlie non fanno assolutamente nulla per educare le figlie a una visione della vita diversa dal punto di vista delle cioè, donne. Cioè la loro dignità, la loro indipendenza. Ma, tra l'altro, allora, Gabriella ha due figlie, anche tu Anna Maria, sì. Però anche i figli, educhiamo anche i figli anche maschi. Anche i figli maschi. Se punta solo, no, no, certo, ma perché la mentalità di una volta imponeva che i figli maschi fossero trattati come principini della casa. Infatti io ero ancora molto adesso, gelosa dei miei fratelli, perché io, femmina, con tre fratelli maschi. Primogenita, ma ancora adesso rinfaccio a mia madre, dico tu eri al telefono col tuo figlio preferito sempre. E dico così perché i maschi avevano degli spazi, però ho provveduto io a educare i miei fratelli imponendo loro con la frusta era Anna Maria da ragazza, gli stessi lavori che facevo io li dovevano fare anche loro in casa, cioè io da quando avevo 6 anni ero già come adesso. Ma è vero, se non si parte da lì non c'è speranza, infatti, in tutti i sensi, al di là dei discorsi politici che stiamo facendo in questo momento. Gabriella, ti ringrazio del tuo intervento, e adesso invece diciamo sia state serie, buttiamola sul faceto, ecco, diciamo, eccolo lì che arriva galoppando col suo asinello, perché il cavallo non mi sembra molto adatto, a Stefano Andreoli, il papà di Spinoza.it, il blog satirico più cliccato e più premiato della rete. Stefano, Buongiorno a te, caro. Buongiorno da Savona. Sono da Savona, sì, è un giramondo. Lui passa da Savona a Gorgonzola, Canicattì, è una cosa, non si ferma mai. Bellissima Stefano. Città. Quanta ragione ha avuto quest'ultima telefonata, ma anche quella precedente, signor Adriano. Fango su Berlusconi, è tutto fango su Berlusconi, ma il vantaggio è che non si nota, quindi possiamo andare avanti. Va avanti, sì. Un piccolo accenno: Ruby, alias Karima, alias chissà quanti altri nomi, compie 18 anni, finalmente possiamo vedere la sua faccia. Il bello è che è l'unica parte del corpo che mancava. Anche Berlusconi, lo stesso Berlusconi era curiosissimo di vederla in faccia. Finalmente possiamo abbandoniamo questo argomento, abbiamo già detto troppo forse. Sì. Passiamo a notizie più frivole. Bertolaso va in pensione. Ora potrà godersi le catastrofi da casa, ecco. Chiaramente anche questa è una notizia importante. Non so se hai visto, si parla di una bufala, il famoso limone mutante di Tertino. L'ho visto, sì, tutto pieno di bitorzoli. Mi sono impressionata stamattina quando ho preso il tè, ho guardato bene il limone che avevo tra le mani, un po' di bitorzoli ce l'aveva pure. Era una cosa aberrante questo limone, avete visto la foto, questo limone verdastro con pieno di brufoli. Comunque non vedo nulla di straordinario, ha dichiarato una mozzarella, quindi possiamo essere certi. Ed era blu? Sì, era una mozzarella assolutamente blu, tutto è normale. Veniamo un altro paio di notizie. Draghi ha dichiarato stabilizzare i precari. Mi sembra venuta da lui questa cosa. Poi potrebbero cadere dai tetti, è giusto stabilizzarli, perché ultimamente delle corde dei reggenti. Va molto di moda, anche se in effetti stabilizzare i precari, diciamo che col culo per terra sono abbastanza stabili come posizione, voglio dire. Sì, non credo ci sia ragione di stabilizzarle di più. Cosine dal mondo: Argentina, prete sorpreso a letto con moglie di un parrocchiano, che peraltro ha filmato anche tutto quanto. Sì, ho visto ieri, sì, su Repubblica.it mi sembra. Il prete si è giustificato, mi aveva detto che era minorenne, e quindi però non ha detto questa cosa. Comunque ora questa donna è incinta di questo sacerdote. 4 mesi, sì. Esatto, è uno di quei pochi casi in cui il padre può occuparsi personalmente del battesimo, quindi si fa tutto in famiglia, sì, e si risparmia anche. Chiudiamo... Chiudiamo con un episodio invece casalingo. A Verona, finto prete diceva messa da 15 anni, ma non era un sacerdote, semplicemente quest'uomo per passione, per vocazione, certo, ognuno la sua. Diciamo così, andava in questo paese del Veronese, da Perugia, e diceva messa per anni. Si è tradito, è stato scoperto quando non ha molestato nessun bambino, quindi è stato capito da questa cosa che non era un vero prete da questa cosa. Va bene, Stefano. Chiediamo scusa ai sacerdoti, sì. Buonasera. Sì, possiamo censurarti adesso? Certo, è sempre troppo tardi. Censurare Stefano Andreoli, naturalmente, ma al galopo ci proviamo. E adesso, prima di sentire magari ancora uno o due ascoltatori all'800 24 0024, vorrei il prossimo intervento annunciare in questo modo. Allora, quello di cui sono rimasta ben impressionata dopo questa frase del Presidente del Consiglio, meglio andare dietro le belle ragazze che essere gay, di tutta la indignazione internazionale, che ci fa capire che tutto sommato l'argomento, almeno all'estero, è diciamo ben metabolizzato. Giornali da tutte le parti del mondo, visto dall'India all'Argentina, giornali del Sud America e dell'Asia, veramente sono rimasta ben impressionata. Allora, visto che questo termine gay è tanto risonato in questi giorni, la proporrei come termine alla linguista della Sapienza di Roma, Valeria Della Valle. A te, Valeria. Eccomi. Allora, la parola gay ci è arrivata dall'anglo-americano, gay, è parola che significava non solo gaio, allegro, ma anche licenzioso, ecco come è avvenuto il passaggio. Però nonostante questa brutta partenza, in realtà negli anni 50 piano piano la parola si è diffusa con il nuovo significato, e la cosa importante è che si è diffusa dalla lingua inglese in tutto il mondo. Quindi una volta tanto succede che una parola si impone alle altre, per quale motivo? Non per modo, ma perché risponde a una reale esigenza di comunicazione. Tra l'altro, le parole che si usavano in Italia, ma anche altre nel resto del mondo, almeno fino agli anni 60, per indicare i gay, erano tutte parole fortemente discriminatorie, no? O venate di disprezzo, oppure che alludevano a qualche perversione, oppure che sapevano troppo di medicina. E gay ha risolto tutto, perché può essere usato come maschile e come femminile e come aggettivo, e poi perché ha dato luogo anche a altre formazioni oramai internazionali. Pensiamo solo a Gay Pride. Un'ultima osservazione: sì. Persino chi è arretrato su posizioni e esibizioni da maschio d'altro tempi, e non faccio nomi, almeno a una cosa si è convertito: l'uso della parola giusta. Hai visto, c'è sempre speranza. Allora, va bene. Grazie, Valeria Della Valle. Ciao, cara Valeria. E abbiamo tempo, prima della conclusione di Anna Maria Bernardini De Pace, anche per sentire se non uno, due o uno, vediamo. Gianni dalla provincia di Bergamo, il numero verde 800 24 0024. Gianni, sinteticamente, vero? Buongiorno Gianni. Senta, io vorrei spezzare una parola in favore del nostro Presidente del Consiglio. Spezziamo la parola o la lancia? Quale dei due? La parola, va bene. E comunque, secondo me, è una persona talmente diretta nell'esprimersi che non c'è niente da meravigliarsi di quanto dice. Per me è naturale l'espressione con la quale lui si è rivolto ai giornalisti, e credo che chiunque altra persona che fosse maschio, diciamo, senza pensare al maschio come emblema di virilità, di forza, via dicendo, insomma, sì. Al macho sì. Come le donne, chiunque altro si sarebbe espresso come lui. Quanto poi cioè dicendo che è meglio essere che essere gay, questo dice. Certamente, giusto certamente. Così. Gianni, e la Sant'Anche, oltretutto, ha ragione. Gianni, ma tu sei un vero maschio? Gianni, fammelo dire. Gianni, sei un vero maschio, tu ti senti? Ma insomma, mi sento una persona normale. Molto bene così. E sulla normalità io chiuderei. Anna Maria Bernardini De Pace, conclusione tua. Sai qual è la tragedia? Che questo genere di maschi direbbe anche tutti: meglio essere maschio che essere donna. È vero, è questa la cosa che era sottintesa, sotto sotto, diciamo, è la cosa ancora più peggiore. Un po' più in fondo nel pozzo c'era questa di frase, che ancora deve emergere, ma nel pensiero di tutti. Grazie Anna Maria Bernardini De Pace. Su Ultimo del Libro, Diritti Diversi, La Legge Negata ai Gay, da Roberto Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.